Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il volo delle farfalle, la scomparsa di Emanuela Orlandi, di Federica e Matteo Festa, con Federica Festa. Cos'è che volete sapere? Dove sta Emanuela? In 27 anni l'hanno vista in molti luoghi. A Blatta, nella Repubblica Ceca, in Turchia, nel lago di Castel Gandolfo, in Marocco, a Isolotto di Campi, vicino Vieste, in Lussemburgo, in un convento, a Casale Aterlano, vicino Bolzano, in Colombia, in un monastero, a Lucerna con un turco, in un villaggio in Asia Minore, a Parigi, in Olanda con plastica facciale. Per noi a Natale è sempre al suo posto, a tavola, col suo tovagliolo, col suo piatto vuoto, tra Cristina e Federica. Intendiamoci, per noi più si parla di Emanuela e meglio è. Io sono contenta che voi vi interessiate alla sua sorte. Vengo spesso qui a Sant'Apollinare nei momenti di sconforto perché questo posto mi parla di lei. Ma non ho mai trovato tante persone. E qualunque sia la verità, so che me la racconterà un estraneo. Qualcuno che avrebbe potuto parlare molto tempo fa e non l'ha fatto. Qualcuno che forse non l'ha mai conosciuta davvero. Qualcuno che non sa cosa ha significato per noi trascorrere 27 anni di bugie, silenzio e speranze. Io me lo sento. La verità cadrà d'un tratto dall'alto, come un quadro che si stacca dal chiodo. Ci coglierà di sorpresa, comunque impreparati, anche se ho immaginato quel momento miliardi di volte. Quando è scomparsa Emanuela aveva 15 anni, stava al convitto Vittorio Emanuele II, c'era la consegna delle schede, lei era alle prese con il saggio di flauto. Quel pomeriggio del 22 giugno 1983 Emanuela esce da Porta Sant'Anna, prende il 64 per andare alla scuola di musica di Piazza Sant'Apollinare e arriva in ritardo a lezione perché si ferma a parlare con un uomo su una BMW a Corso Rinascimento e poi esce pure prima della fine della lezione. Alle 7 da una cabina chiama a casa e dice a Federica che le hanno, mia sorella, che le hanno offerto un lavoretto di vendita di prodotti cosmetici dell'Avon. E lei vorrebbe andare, vorrebbe chiedere il permesso ai genitori, ma papà e mamma non ci sono. E Federica la invita a tornare a casa, Emanuela la rassicura, attacca e va all'appuntamento col tizio con la BMW dell'Avon a Corso Rinascimento. La vede l'amica Raffaella, lei è l'ultima che la vede. In quel momento c'era un gran trambusto in casa, sì, io in quel periodo mi dovevo sposare, lei suonava, la Roma aveva pure vinto lo scudetto, vivevamo in una casa in Vaticano vicino a Porta Sant'Anna e lei scendeva in strada insieme a noi, avvolta nelle bandiere giallorosse a fischiare, mamma, papà, eravamo tutti e noi cinque figli, io, Pietro, Federica, Cristina ed Emanuela. Ah sì. Io sono Natalina Orlandi, 1983. Perché non mi sono imposta? No, la vogliamo fare ugualmente la denuncia, poi in caso la ritiriamo, potevo dire così. Invece abbiamo perso un sacco di tempo prezioso e le indagini sono partite in ritardo. La polizia non ci prende sul serio. Vi preoccupate per un'ora di ritardo? Papà ci ha educato alla puntualità e se facciamo tardi avvisiamo. Un'ora di ritardo è un ottimo motivo per essere preoccupati. Erano già iniziati i brutti pensieri, l'aggressione di un bruto, un incidente. I poliziotti però insistevano, è troppo tardi, non facciamo verbali, aspettiamo domani che poi magari si risolve tutto e rimane questa brutta denuncia. E allora siamo andati noi, fratelli, con le foto in giro, strada per strada, porta a porta tra le case dei conoscenti, abbiamo messo noi quei manifesti che conoscete tutti. E siamo stati noi e non la polizia a scoprire che una guardia del Senato aveva visto Emanuela parlare con un tipo, con una BMW. 3 giorni dopo è arrivata la prima telefonata a casa. Che emozione. La voce ha detto di chiamarsi Pierluigi. Diceva di aver visto Emanuela a Piazza Navona e di averci parlato. Tutte le informazioni sembrano corrette, ma non chiedeva niente. Poi ha chiamato Mario, di lui abbiamo una registrazione. Mario diceva che quello della BMW era un suo amico, che Emanuela era scappata di casa per noia, ma che sarebbe tornata a settembre per suonare al mio matrimonio. Come lo sapevano che doveva suonare al mio matrimonio? Le indagini della polizia sono iniziate davvero solo 10 giorni dopo, perché il Papa ha parlato all'Angelus di Emanuela. Quella mattina le parole di Giovanni Paolo II ci hanno aperto il cuore. Quante telefonate all'inizio, curiosi, mitomani, giornali, sciacalli, non so che cosa gli avrei fatto agli sciacalli, speculavano sulla nostra disperazione. Per questo abbiamo messo tutto nelle mani dell'avvocato Egidio. Io cercavo di lavorare e stare tranquilla, ma avevo il chiodo fisso. Alle 5 adesso però cerco di stare calma, stacco dal lavoro e vado allo studio dell'avvocato, perché le telefonate dei rapitori arrivano tutti alla stessa ora, tutte alle 6, le 7, sono abilissimi, sanno esattamente quanti minuti sono necessari per individuare la provenienza delle telefonate e non superano mai i tempi. Dopo Pierluigi e Mario, i più attendibili, a luglio quel telefono ha squillato 36 volte, tutti diversi, tutti che sapevano. Ma mai una prova diretta che Emanuela è viva. Eppure la chiave è sempre lì, nella serratura della sua porta. Non l'abbiamo più tolta da quella sera. Se lei torna può entrare subito. E il pensiero va sempre lì, a quel pomeriggio del 22 giugno 1983. È un mese che dormo accanto ad un'assenza. Ho rimandato il mio matrimonio, era previsto per settembre, ma le telefonate continuano. Ora sta chiamando uno strano personaggio dall'accento americano. Si dice legato a Pierluigi e Mario e ci ha fatto capire di essere vicino ai servizi segreti di chissà quale nazione. L'americano ha fatto 16 telefonate, 16 sussulti del cuore di tutti noi, di papà soprattutto, ma nessuna informazione utile. Oggi invece è arrivata un'altra rivendicazione. Questa volta si chiamano lupi grigi. Legati ad Ali Agca, sì, si dicono. Il fronte turco, no? Ali Agca, quello che nell'81 aveva attentato al Papa, 2 anni fa. Lettere, messaggi. Pure loro assicurano che Emanuela tornerà a casa, però solo se Agca viene fatto uscire di prigione entro una settimana. Uno scambio di ostaggi, insomma, si chiama così. Ma che c'entra, ma che c'entra mia sorella con Ali Agca? Prima d'ora non avevo mai pensato di farlo, di leggere il diario segreto di mia sorella. Va bene, segreto lo chiamava lei. Il posto dove lo lasciava, per esempio, non era per niente segreto. Il terzo cassetto della scrivania in camera sua. E neanche il lucchetto aveva, che i diari segreti ce l'hanno. Ce l'hanno sempre. Era un diario di Snoopy. Sì, me lo ricordo quando lo teneva sulla sua scrivania. E gliel'aveva regalato mamma a Natale qualche tempo prima. Subito lei aveva detto, ma che ci faccio io con un diario segreto? E poi aveva cambiato idea, lo portava sempre con sé. Ci faceva i disegni e vedevo che ci scriveva pure le canzoni di Claudio Baglioni. E poi aveva finito per usarlo in classe. Magari durante le ore di francese. Che lei non lo sopportava proprio il francese, come me. 5 anni ci separano, il giusto per ricordarmi quello che ho appena smesso di fare e che vedevo sbocciare incerto in lei. Non ho mai pensato di farlo, sì, ma devo. Sono Emanuela, nata a Roma il 14 gennaio 1968. Ho le squame e gli occhi a palla. Che scrive? Alta 1,20 m e larga 1,50 m, 42 di piede, peli qua e là. Sto in seconda B, speriamo vado in terza, mi accontento se mi danno qualche materia, ma magari me la cavo, dai. Guarda questa foto. Mi ricordo lo strazio di qualche giorno fa, il momento della scelta delle foto, tutti insieme intorno al tavolo. Il suo viso sorridente con intorno 1000 panorami, no? In quel momento mi sembrava che era morta. Come quando si cerca la foto migliore da mettere sulla tomba. Mamma si è messa a piangere, papà diceva: guarda quelle recenti, guarda quelle recenti che somigliano di più, ma a trovarle, che c'era un tale caos nella cassapanca, gli anni si confondono. Una nascita era accanto a un matrimonio nella cassapanca, gli anni 50 con le foto con i bordini bianchi erano accanto agli anni 80, che lì si mette tutto a fuoco. Ma questa è bellissima di foto. E qua è quando siamo andati alla casa delle farfalle, sì, a Villa Borghese. Ci siamo io e Manuela circondati da farfalle, la casa delle farfalle, a lei le piaceva tanto, è una specie di zoo dove però le farfalle vivono libere, senza predatori. E così si avvicinano alle persone, perché sono abituate a pensare agli uomini non come a una minaccia. E Manuela adorava le farfalle. Il Sisi ha detto a mamma che sarebbe tornata entro una settimana. È passato un mese. Mamma non esce di casa. Sta ore seduta nella poltrona del salotto aspettando telefonate. Io non dormo più di 3 ore. Ogni squillo del telefono mi agita. Non posso riposarmi. Si riposano i morti. I morti si riposano. Io non sono morta. Emanuela non è morta. No. Mia sorella non è morta. Ci saranno altre foto. Tornerà. Noi resistiamo. Papà, oggi leggerà ai giornali una dichiarazione. L'abbiamo scritta insieme e soppesato ogni parola. Io, padre di Emanuela e interprete delle sensazioni, del turbamento profondo, dell'incommensurabile dolore di mia moglie, ho deciso, nel nostro pieno diritto, di chiedervi una sola precisa risposta, poiché quello che voi avete definito la parentesi Orlandi per me e per mia moglie rappresenta il tutto di una vita. Se Emanuela è ancora viva, provatelo. Se la cara, adorata Emanuela è morta e quindi chiusa la parentesi Orlandi, indicateci il luogo dove trovarla, perché in ginocchio si possa pregare per lei, vicino a lei. 1997. E basta. Il caso è archiviato. Così, senza movente, senza indagati. Oggi, 19 dicembre 1997, la Procura di Roma ci abbandona. Ecco le ultime parole del GIP Rando. Il movente politico-terroristico nel rapimento di Emanuela è privo di fondamento e fu un'abile dissimulazione del reale movente probabilmente destinato a rimanere sconosciuto. Ma come? 3 anni fa hanno scoperto che in Vaticano c'è un dossier chiamato Orlandi. E ora, tramite intercettazioni telefoniche, hanno scoperto che il capo della polizia vaticana, Raul Bonarelli, ha ricevuto l'ordine di non parlarne negli interrogatori in procura. Insomma, acqua in bocca. Caso archiviato, anche per questo silenzio. Dove trova il Vaticano la forza di tacere? Perché non aiuta una sua cittadina e non collabora nelle indagini? Cosa c'è di più importante di una vita umana? Per un cristiano. Dopo 14 anni dalla sua scomparsa voglio pensare che Emanuela è viva. Magari sta vivendo un'altra vita. Solo che vorremmo stare pure noi, familiari, tranquilli. Avere un segnale. E poi io ho conservato tutto nella sua stanza. È un po' cambiata perché mamma ha dovuto far spazio ai 6 nipotini che non hanno mai conosciuto zia Emanuela. Ma ci sono i vestiti, i quaderni, le collane. E c'è pure un fermacapelli a forma di farfalla perché Emanuela adorava le farfalle. Così libere e colorate, diceva. Una volta mi ha detto: Natalina, sai delle farfalle anziane, quelle che vivono in cattività, lontano dalle minacce, quindi più a lungo delle farfalle libere, no? Lo sai come muoiono le farfalle anziane? Muoiono perché le ali si consumano. Le loro ali delicate non sono fatte per vivere a lungo. Così per mangiare devono essere imboccate. Ogni anno, quando arriva il 22 giugno, mi vengono i brividi. L'estate entra nel suo secondo giorno e il mio cuore ha freddo. Ci sono voluti 10 anni per tornare ad una vita accettabile. La fede ci ha aiutato. Preghiamo molto. E per quanto la nostra speranza abbia le ali logorate dal tempo, continueremo ad alimentarla. Se Emanuela torna oggi, ha 29 anni. 2010. È libero ora. A gennaio Ali Agca è uscito dal carcere di Ankara, dopo 28 anni. Provo invidia per quel corpo. Invidio i suoi piedi che possono calpestare tutti i pavimenti del mondo, le sue mani, se penso al momento in cui stringerà le spalle dei suoi cari. Invidio i suoi occhi commossi mentre rivedrà la sua casa e mi fa rabbia sentire la sua voce e pensarla come la voce di un uomo libero. Mentre per noi la voce di mia sorella è... Agcia è solo un burattino, manovrato da qualcuno più forte di lui. O forse lui stesso, un burattinaio di chissà che cosa. Oggi dice che Emanuela è viva, che vorrebbe riportarla a casa. Magari nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. Che sa, ma non parla come tanti in questa storia. Beh, non mi importa niente di uno che si proclama Gesù sceso in terra. Per 20 anni gli abbiamo creduto. Oggi invece sembra chiaro, la scomparsa di mia sorella non c'entra con lui o con l'attentato al Papa, fu solo terrorismo mediatico, per depistare le indagini. Emanuela fu rapita, sì, per un ricatto al Vaticano, ma basato su altro, un ricatto inconfessabile. Papa Ercole intanto non c'è più. Forse dove sta adesso la verità l'ha scoperta. E ora invece dai giornali leggo che ha iniziato a parlare Sabrina Minardi, la ex compagna di Enrico De Pedis. Dice che è stata la banda della Magliana a eseguire il rapimento, no? Dice che Sabrina Minardi ha detto in procura che un giorno De Pedis la fece salire su una BMW al Gianicolo, su cui c'era Emanuela, confusa e frastornata, e le ordinò di accompagnare mia sorella al benzinaio di Porta Cavalleggeri, dove ci sarebbe stata una Mercedes nera, targata Città del Vaticano, che l'aspettava. All'appuntamento, dice la Minardi, c'era un sacerdote con il vestito lungo e il cappello con le falde larghe. Scese dalla Mercedes e lei gli consegnò Emanuela. La Minardi ha detto che l'ordine di rapirla era partito dall'alto, che erano coinvolte personalità importanti del Vaticano, come il capo dello IOR, come Monsignor Marcinkus, no? Che il rapimento era un modo per dare un messaggio a qualcuno in Vaticano. E dopo il rapimento portarono Emanuela a Torvagnanica, dove rimase 15 giorni, ricevette la visita di Marcinkus e poi, dice la Minardi, che venne uccisa e il suo corpo gettato in una betoniera lì a Torvagnanica. Mamma non la prende proprio in considerazione questa ipotesi. Ripete che non ci sono le prove. Io quando l'ho saputo mi è parso di sentire il sapore del cemento nella gola. Man mano che le parole della Minardi vengono confermate dagli inquirenti, dai pentiti Abatino e Mancini, man mano che c'è il primo indagato, Mario, il telefonista, man mano che la verità prende corpo e che ora è stata ritrovata la BMW appartenuta effettivamente alla banda della Magliana, io sento quel cemento che mi si solidifica nello stomaco come un macigno. Che relazione c'è tra la banda della Magliana e il Vaticano? Del resto, cosa ci fa un criminale come De Pedis sepolto qui sotto, a Santa Polinare, onore riservato solo a cardinali e personaggi illustri? Don Pietro dice che era un grande benefattore di Santa Polinare, che non sapeva fosse un criminale. No, in Vaticano non hanno rispetto per i morti. Quelli ammazzati dalla banda della Magliana, dico. E non hanno rispetto per noi vivi, per chi resta aggrappata a una speranza. Noi non sappiamo a chi credere, ma sappiamo in cosa sperare. Se Emanuela torna oggi, ha 42 anni. Imma conta gli sordi. A vedere la gente, oh! Suor Teresa mi ha detto che ci stava a chiesa piena, non gli volevo credere. Ammazza quanti siete, tutti turisti. Do you speak English, French, Deutsch? Vabbè, tanto io parlo solo italiano. Cartolina, Roman Monuments, questi incomprano. Ma che siete italiani? Oh, Sor Teresa mi ha detto d'entrare qui in chiesa che piove. Lei è un pezzo di pane, Don Pietro pure, Però lui non mi fa mai portare banchetto dentro, dice che disturbi i fedeli. A Don Pietro, ma dove stanno sti fedeli? Sono tutti turisti. Poi io, mi metto là, buona buona. Certo, mi piace chiacchierare. Mo dice sempre pure Guglielmo mio. O conoscete, no, Guglielmo? Fa il barista a Mela Stregata, a Corso Vittorio. O conoscono tutti, è là che ci siamo visti la prima volta, quasi 30 anni fa ormai. Don Piero ogni mattina mi dice, allora, sto matrimonio? Domani, Don Piero, in effetti dopo 30 anni se vorremmo pure sposare. Ma Guglielmo mi risponde, ma io te amo, ma ancora ma sento. Ah, oh, quando l'uomo tuo ti dice che te ama, il resto della frase te la scordi, tanto è con lui che voglio stare. Scusate, oh. Ma che disturbo? Vabbè, tanto state qua seduti, non state a fare niente. Ma che state a fare? Don Piero non c'è sta, tanto, sta dal fornaio. Ma che niente, niente, siete giornalisti per vedere la tomba dei Peti, se volete parlare con Don Piero, magari. State a perdere tempo! Don Piero non c'è niente da dire. Oddio, ci avrebbe da dire, Ma, vabbè, comunque qui sotto c'è sta qualcuno che sapeva qualcosa, ma ormai può raccontare solo ai diavoletti. Io me la ricordo questa dell'I di Emanuela 83. Faceva un cardo che sudavano pure i ventilatori. Diceva che era colpa delle bombolette spray. Eppure quando mi mettevo il deodorante Impulse era l'unico momento d'aria fresca. 83, sì. C'aveva ancora il banchetto dei souvenir a Piazza Navona. Ma già cominciava a andare male. Quell'anno poi mi crollò un mito dopo l'altro. Prima Enzo Tortora in galera. Poi il crollo da DC a Vittoria De Craxi alle elezioni. Pensavo, mo ci mancano solo che arrivano l'UFO. Che Guglielmo non ci crede all'UFO, no? E pensarci che poi l'UFO sono arrivati veramente. Vabbè, in TV, su Canale 5, i Visitors. La sera stavamo incollati a guardarsi extraterrestri verdi che si mangiavano i topi. Vabbè. Ma so proprio l'anni 80 che sono iniziati sbilenchi, Nel 81 c'è stato attentato al Papa, quel giorno lavoravo qua, mi sembrava ci fosse il demonio in persona. Volete una cartolina? Ormai le cartoline ne vuole più nessuno. Mi ricordo che negli anni 80 andavano tanto, tutti si mettevano là a scrivere baci abbracci, e vendevo a 20 lire. Comunque io non è che ci sono nata con le statuette in mano a vendere statuette per strada, Io ci sono finita. A me mi ha rovinato fidamme che c'avevo quel bel banchetto a Piazza Navona. Ma mo ve leggo una chicca, se siete giornalisti la dovete dire la verità, la dovete dire. No, sta lettera non m'ha scritta Guglielmo, quello non scrive manca la schedina. Questa ha scritta Roberto Carvi, no, 82, quello del Banco Ambrosiano, no? L'ha scritta Papa Giovanni Paolo II. Sentite che gli dice prima di morire, Santità, sono stato io a addossarmi il pesante fardello degli errori commessi dai rappresentanti dello IOR, comprese le malefatte di Sindona. Sono stato io che su preciso incarico degli autorevoli rappresentanti del Vaticano ho disposto finanziamenti di 1.000 milioni di dollari in favore di Solidarnosc. E sono stato io che su incarico del Vaticano ho creato in Centro Sud America delle banche per contrastare l'espandersi di ideologie filo-marxiste. E sono stato io che ora vengo tradito e abbandonato. Questo dice Calvin 82 al Papa, gli dice. Però non gli dice, sono stato io a far sparire i sordi da Soraim e De Guglielmo. Questo non lo dice, Che tutto cominciò nel Natale del 82, che mi arriva una telefonata strana, mo va a racconto, del monsignore amico nostro, no? Che dice che i risparmi nostri avevano perso liquidità. Liquidità, dice Guglielmo, ma ne erano de carta sti sordi nostri. Ho capito che l'avevamo messi allo York, a Banca Vaticana, perché il monsignore amico nostro ci aveva consigliato, perché lì così potevamo far fruttare, no? E che dopo un anno ci aveva pure chiamato per dirgli, senti, spostiamoli dallo IOR, mettiamoli al Banco Ambrosiano, che là fruttano ancora meglio. E noi ci eravamo fidati. E mo nel 82 arriva sta telefonata che mo se dovevamo mettere a aspettare la liquidità desti sordi, come se dovessero cadere come la manna dal cielo, che quelli erano i sordi nostri, erano 10 milioni nostri che l'avevamo messi da parte con tutti i risparmi della vita, che c'è stava pure la pensione di invalidità di Guglielmo. Io ci volevo dire tu parole a detto monsignor amico nostro che se eravamo detti tutti tutto così a parole e mo stava tutto a finire a parolacce. Che Guglielmo me lo dice sempre, è inutile che t'arrabbi così, che è come aggiungere l'acqua alla sabbia, diventa solo più pesante. E io non ci dormivo però de notte che me leggevo i giornali per documentarmi, per capirci qualcosa di che era successo dei sordi nostri, no? Innanzitutto lo IOR, Istituto per le Opere Religiose. È una banca strana, riservata solo ai cittadini e ai dipendenti vaticani. Non è obbligata a darti una ricevuta, un bilancio, un consuntivo. I conti solo numerati, senza il nome del correntista. Sono in qualsiasi valuta e il denaro può essere spostato su qualsiasi banca, senza controllo. Eppure il monsignore diceva che al massimo li sordi nostri, lo IOR, l'aveva impiegati per opere di bene. A monsignor, mo ho capito, e i sirene cantano più soavi quando te stanno per dana sola. Se c'è una banca da lascia perdere, quella è proprio lo IOR, guarda. E così ho capito che ci stavano tanti personaggi, che rodavano intorno a sto IOR. Tutto è cominciato nell'87. E perché un gruppo d'amici si stavano a vedere e tra questi ci stava, allora, un gruppo d'amici, Roberto Calvi, Roberto Gervaso, Duilio Poggiolini, Gustavo Selva, poi c'è stava Berlusconi, Gelli, vabbè, sembrano quelli invitati a milionaire, invece no, sono quelli della loggia P2. E poi c'è stava Pietro Longo, Agostino Casaroli, Marcinkus, Alighiero Noschese, Vittorio Emanuele, vabbè, non vi dico tutti che se no ci rimanete male, magari c'è sta pure qualche amico vostro oppure il direttore della banca vostra. Insomma, sto gruppo d'amici cominciano a vedesse, e a capo di sto gruppo, la Propaganda 2, no? Detta loggia P2, c'è stava un certo Andreotti Giulio, no? Che c'aveva pure lui in contato IOR, però sul suo arrivavano un sacco di miliardi al mese. E tra questi amici c'era pure sto certo Roberto Calvi, no? Che era il capo del Banca Ambrosiano. E che successe? Banca Ambrosiano si cominciò a unire con lo IOR. E così si può dire che il Vaticano era diventato padrone delle due banche, no? Lo IOR e il Banca Ambrosiano. E dove pensate che vogliono arrivare due banche del Vaticano? In paradiso. Vabbè, paradiso fiscale che è uguale, no? E così, infatti, lo IOR che cosa fece? Si occupò in tanti paradisi fiscali di riciclare un botto di denaro sporco con piccole società fantasma, no? E per sto favore Calvi gli diede 1.800 miliardi di lire per sta cortesia di riciclare questi sordi, no? E poi che è successo però? Lo IOR a un certo punto ha ricevuto sti sordi e però il Banca Ambrosiano ha cominciato a fallire. No, 87 ha iniziato a crollare il castello dei Calvi per i debiti. E allora il Banca Ambrosiano è andato a bussare allo IOR e gli ha detto: senti, ma io ti avevo prestato questi 1.800 miliardi, non è che me li puoi ridare perché io sto messo un po' male. E lo IOR gli dice: oh, io non ti ho dato niente, io non c'ho niente. Il Vaticano gli dice che non c'ha niente, che non glieli vuoi ridare. Allora Calvi là le cose si cominciano a mettere male, allora fa le valigie, scrive sta lettera che abbiamo sentito adesso e va a Londra. Ma lì lo beccano e lo fanno suicidare sotto il ponte dei Frati Neri. E così lo IOR sti sordi non gliel'aveva ridati al Banca Ambrosiano, che è dovuto fallire. Però c'è stata tanta gente che come me è andata allo IOR e gli ha detto: senti, ma allora sti sordi che ci stanno pure i sordi di Guglielmo e ci stavano pure i sordi della banda della Magliana che gli aveva dato 20 miliardi gli aveva dato la banda della Magliana e non gli stava a riavere pure la banda della Magliana, no? E così, soltanto a lei è stato proprio un anno terribile, eh? Hanno fatto anno santo, soltanto per impinguare i casse del Vaticano. E così, no, 84, Casaroli ha detto, vabbè, ridiamogli qualcosa a Banca Ambrosiano, no? E gli hanno dato qualche soldello che io ho detto, ma voi vedete che me li danno pure a me i soldi, me li danno pure a me, invece no. Perché se sto qua a vendere statuette a Piazza Navona, a me mi hanno ridato niente. Che poi sono morti tutti quelli che mi potevano ridare i soldi a me. È morto Carvi, sotto al ponte, Sindona, col caffè al cianuro. Marcinkus, nel 2006 è morto, che de quello ne parlano male tutti, che poi è stato pure indagato. Nel crack dell'Ambrosiano è stato accusato di riciclare i soldi da mafia in connessione con la P2, però siccome lui aveva il passaporto vaticano non gli hanno fatto niente, che Sor Teresa lo dice sempre, ma qua i preti quando è che cominciano a fare i preti? Vabbè, dice sempre, ma se vuoi a chiesa dei tuoi sogni è meglio che ti metti a dormire, così dice Sor Teresa, e non c'ha tutti i torti, Comunque, il colonnato lo volete? Il colonnato è andato sempre, Chi lo vuole il colonnato? Anche de gesso, de marmo, de plastica, questo ve lo metto a 2 euro. Guarda, lo fanno i cinesi, quello de plastica, non si vede proprio la differenza. I bambini invece, guarda, impazziscono per Colosseo d'oro. In effetti mi piaceva pure a me da piccola, con questo effetto luccicoso. Intenerisce pure un sasso, pure a Guglielmo intenerisce. Gli adolescenti stanno sempre invece a guardare il pisellino del Davido e dette della Venere dei Medici, io gli farei pagare la visione. A me comunque mi piace sta qua, in questo angolo de monna riparo de Dio. C'è stava mio padre e mio nonno. E poi i turisti rinascono sempre, escono nuovi nuovi dalla pancia delle aeree che se sognano Roma magari in una vita, oppure c'è sta pure chi non ha mai sentito parlare e se ne innamora uguale di Roma. Ah, bello il Colosseo, una palla con la neve. Questo mi piace solo a me ormai. Mi ricorda la neve, ma no, quella del 56, quella del 85. I piatti invece ne ho proprio nessuno, che è pure passato de moda a prendere i piatti al muro. Ma come dice Guglielmo, è inutile piagne sul latte versato, meglio ride sul vino bevuto. Oh, vada stata la Suor Teresa che mi sa che mo ha spiovuto. Comunque è inutile che aspettate, C'ho pure il portachiavi del Benedetto XVI, se vi interessa il genere. Oppure c'ho i pezzi rari. Vabbè, ma sto a perdere tempo, questi non c'hanno una lira. Ma che pure voi ci avevate in conto IOR? Suor Teresa che fa l'omelia. In piedi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, chiedendo perdono per tutte le volte che ci siamo lasciati dominare dall'egoismo. Signore, tu hai proclamato i piccoli e poveri eredi del tuo regno. Abbi pietà di noi, Signore, pietà. Cristo, tu apri le tue braccia a quanti soffrono a causa del tuo peccato del mondo. Abbi pietà di noi, Cristo, pietà. Signore, tu prometti gioia piena a quanti mettono la loro vita a servizio del tuo Vangelo. Abbi pietà di noi, Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo, in piedi. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, difendete la mia causa dalla gente malvagia e liberatemi dall'uomo iniquo e fraudolento. Dio è la nostra forza. Breve pausa. Breve pausa di silenzio che sta scritto. Il silenzio è d'or, ma che stanno alcuni silenzi incolpevoli. e fa mele. La Bibbia è come uno spartito musical, suoni e pause. E sol se eseguito bene viene fuori una sinfonia. Ma non dobbiamo amare i testi sacri più degli esseri umani. Senza ascolto e accoglienza del prossimo, le parole, anche le divine, sono inutili. Il primo a trascurare i libri sacri è stato Gesù nel discorso della montagna. Vi è stato detta xi, ma io vi dirò alter. Il Vangelo esprime valori come la compassione, il servizio, l'amore. Che differenza c'è se questi valori vengono pronunciati sull'altare da un uomo o da una donna? Breve pausa di silenzio, c'è scritto. Il silenzio è una pratica ricorrente per la Chiesa, soprattutto quando viene interrogata su se stessa. Anche alle suore che chiedono di poter dir messa, come Teresa Kane 30 anni fa, sapete quale fu la risposta della Chiesa? Il silenzio. Una Chiesa che si pone come infallibile, dietro lo scudo della tradizione, è superba. E la superbia è sempre la fine del dialogo. La Chiesa non si è comportata così solo verso le suore. Mi, tutti i giorni, campesto questo silenzio. Siete qui per Emanuela Orlandi, sapete a cosa mi riferisco. Oltre a qualche dichiarazione di facciata, cosa fa il Vaticano? Silenzio, silenzio, silenzio. Rifiuto totale di collaborare. No alle richieste dall'Italia di interrogare i prelati, di fornire informazioni e contatti, di favorire le indagini. Cristo insegnava ai suoi discepoli l'amore incondizionato per la verità. Il vostro parler sia sempre un dire sì o un dire no in nome della verità, perché la verità rende liberi. Noi al cospetto di Dio siamo piccoli, ma il compito di ognuno di noi è grande, magnifico. Essere giusti verso il prossimo, amare e rispettare i nostri simili, di ieri, di oggi e persino quelli che verranno dopo di noi. A me non mi piace la Chiesa sfarzosa e chiusa di oggi. No, Signore, che nega la comunione agli omosessuali. Don Pietro, che ne è stato dell'amore di Cristo verso tutti gli esseri viventi? La Chiesa che sogno sta ai margini e a servizio della società, senza alcun'altra ambizione. Forse davvero assomiglierà a Cristo, perché sono le nostre azioni e il nostro impegno per la giustizia a dimostrare chi somiglia a Cristo e chi no. Nel Vangelo di Matteo c'è scritto che il giudizio finale sarà soltanto sull'amore. Ha senso che la Chiesa continui a voler raddrizzare i sentieri, tacendo i propri errori? O forse è necessario un cambiamento di rotta? È giunta l'ora che la Chiesa cattolica chieda perdono a Cristo per i soprusi dei suoi ministri. È giunta l'ora che la Chiesa cattolica chieda perdono soprattutto agli uomini e alle donne per averli traditi e abbandonati. Il riverbero di questo silenzio soffocante l'è durato troppi anni. È tempo che si affievolisca per permetterci di ascoltare, di sapere la verità. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto qualcosa a uno di questi miei fratelli e sorelle più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore, rendiamo grazie a Cristo, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. stata a Roma il 14 gennaio del 68. Ho le squame e gli occhi a palla, alta 1,20 m e larga 1,50 m, 42 di piede. Sto in seconda B al convitto Vittorio Emanuele, l'anno prossimo, speriamo, vado in terza. E mi accontento anche se mi danno due materie, latino e francese. O magari me la cavo, dai. Suono il flauto traverso e un po' il piano e canto nel coro. E mi piace Alberto. Suona chitarra al conservatorio, è bellissimo, ma lui è grande, ha 19 anni e lo vedo solo il venerdì. Raffaella dice che lui si è accorto che mi piace. Sto studiando l'adagio di Albinoni e questo è il punto dove sbaglio sempre nota. Suor Teresa dice sempre che ho troppi pensieri per pensare pure alle note. Stasera alle 8 con mia sorella Cristina andiamo al coro di Sant'Anna. Martedì prossimo andiamo con la scuola allo zoo, dove c'è anche la casa delle farfalle. Che a me le farfalle... Lo spettacolo Il volo delle farfalle, la scomparsa di Emanuela Orlandi, di Federica e Matteo Festa, con Federica Festa. L'agenda della settimana teatrale. Con Elisabetta Longone di Teatro in Scatola per presentare la terza edizione del Festival di Là dal Fiume dal 23 agosto al 6 settembre 2020. Elisabetta, ben trovata. Grazie, buongiorno. Raccontiamo cos'è questo festival. Si basa soprattutto su eventi culturali, tutti ingresso gratuito e diffusi in luoghi diversi e inusuali, insomma non comuni, in questo caso del 12° municipio. Quest'anno il festival si svolgerà soprattutto nell'area di Porta Portese, alla fine del mercato domenicale, la zona Monteverde, Ponte Testaccio e Piazza Sonnino. Sia all'aperto che al chiuso? Tutto all'aperto. Tutto all'aperto. Sì, abbiamo tre domeniche serali, diciamo, dopo appunto il mercato verrà allestita una strada che è via Angelo Bargoni, che è una strada, diciamo, finale del tracciato utilizzato dal mercato di Porta Portese, per tre eventi. Il primo è il 23 agosto ed è un cineconcerto, cioè ci sarà un film del 1921, un film muto, L'uomo meccanico, che è stato il primo film di fantascienza, horror prodotto in Italia. Viene sonorizzato dal vivo da una band rock di Bologna, gli Epset. Poi la domenica successiva, il 30 agosto, c'è un documentario domani francese di Cyril Dion e Mélanie Laurent, è un documentario ecologista alla ricerca di risposte sulla salvaguardia dell'ambiente e come poterle lasciare per le generazioni future. Poi domenica 6 settembre c'è un omaggio all'artista e fotografo Franco Vaccari, soprattutto alla sua opera Esposizione in tempo reale, lascia una traccia fotografica del tuo passaggio, che era stata fatta da quest'artista nel 1972 alla Biennale d'Arte di Venezia, e grazie alla collaborazione con la ditta Dedem, che fabbrica le macchine, quelle per le fototessera, il pubblico potrà a sua volta gratuitamente sempre fotografarsi e lasciare una traccia del proprio passaggio nel nostro festival. E a seguire alle 21.30 c'è uno spettacolo Ecologia, Follia e Dintorni di Jacopo Fossi. E poi invece ci sono attività, chiamiamole collaterali, il sabato 29 e sabato 5 settembre. Sono sia passeggiate sui set cinematografici del 12° municipio in collaborazione con l'associazione Lost in Location, poi c'è una biciclettata lungo il fiume col geologo Pezzolano, e poi a Piazza Sonnino un'edicola abbandonata viene trasformata in una scatola sonora e vengono diffusi dei voci di poeti a cura di Gamma. La cosa interessante è che verrà utilizzata una tecnica un po' particolare, nel senso che non sono delle semplici casse, ma l'edicola verrà fatta vibrare, risuonare essa stessa. Con che spirito era nato il festival? Proprio cercando di portare in luoghi comuni, ma anche magari non conosciuti, eventi culturali di qualità. Per cui soprattutto le prime due edizioni erano proprio ogni giorno un evento diverso in un luogo diverso, che poteva essere una piazza o il fiume o una caffetteria, non so, abbiamo portato per esempio Nanni Palestrini in una caffetteria dietro la stazione Trastevere, oppure appunto nella stazione Trastevere dei concerti, proprio su sul gioco del fatto che le persone, anche che passavano di lì per altri motivi, potevano imbattersi in un'esperienza culturale di qualità gratuita, senza neanche magari averlo programmato, no? Senza neanche aspettarselo. Quest'anno ovviamente abbiamo cercato delle location all'aperto per poter rispettare al meglio queste norme per il Covid e cercare di avere spazi molto ampi. Su via Bargoni abbiamo circa 3.900 metri quadrati proprio per avere la possibilità di mantenere il distanziamento tra le persone che assisteranno all'evento. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Sul sito www.teatriscatola.it oppure Facebook Teatri Scatola c'è tutto il programma, i numeri, il telefono, perché le passeggiate e la biciclettata sono solo su prenotazione, mentre il resto è ingresso gratuito fino a esaurimento punti. Di là dal fiume, terza edizione del festival dal 23 agosto al 6 settembre 2020, un saluto e un ringraziamento ad Elisabetta Longone di Teatro in Scatola. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Con Cristiano Petretto, curatore della rassegna Quintescenza, Teatro del Lido di Ostia, dal 7 agosto al 19 settembre 2020. Cristiano, ben trovato. Ben trovato anche a te e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Ci racconti un po' di questa prima edizione? Nasce con l'obiettivo preciso di portare il discorso sull'essenza, dei concetti scientifici anche altissimi, svilupparli attraverso la poetica teatrale, l'estetica teatrale, quindi renderli accessibili a tutti, cercare di renderli più digeribili. Io ero un pessimo studente dal punto di vista scientifico, quindi in qualche maniera ho una spinta propulsiva importante per cercare di sviluppare un progetto che renda più interessante, appetibile anche qualche concetto un po' più magari complesso. In questo senso abbiamo fatto una scelta di spettacoli, di iniziative che mirano proprio a rendere giustizia, a rendere fruibile per tutti quello che è uno spettacolo strettamente scientifico. Questa manifestazione è un progetto triennale curato dall'Associazione Culturale Affabulazione con il contributo di Roma Capitale. Questo primo anno l'abbiamo dedicato alle identità, a quelle vite che in qualche maniera si sono spese interamente per l'essenza. Diciamo, questo è un po' il progetto in senso generale. Gli spettacoli scelti, com'è stata il lavoro rispetto alla selezione? Inizieremo questo weekend, venerdì 7 agosto, e proseguiremo l'8 e il 9 agosto con un trittico di una compagnia importantissima a livello sia nazionale che internazionale, che è una compagnia del nord che si chiama Ardito Desio. E loro nel corso degli anni, il capocomico Andrea Brunello è prima di tutto un ricercatore scientifico, ma è anche un grandissimo artista, anche un grandissimo poeta. Quindi ci sembrava giusto iniziare con lui questo primo trittico e inizieremo con questo spettacolo che si chiama Il principio dell'incertezza. Poi andremo con due lezioni spettacolo, una purtroppo tristemente nota come pandemie, noi l'avevamo programmata prima che uscisse tutta questa tragedia, ma è un approfondimento molto molto interessante che esce fuori anche dalle logiche che normalmente si sentono all'interno dei media. E poi proseguiremo domenica 9 con Hypervision, quindi anche qui lettura, un spettacolo, un misto di cose su un altro tema molto importante come insomma la visione, la scienza, insomma la tecnologia, cioè c'è tutto un discorso molto molto approfondito e interessante su questa tematica scientifica. Poi proseguiremo il 29 agosto con un omaggio a Majorana, questo a cura della Compagnia dei Teatri della Resistenza, appunto Vite per l'assenza, chi più di Majorana, anche qui c'è un omaggio profondo, un qualcosa che va a scavare intimamente dentro l'uomo e dentro lo scienziato, quindi anche qui la poetica e il tema scientifico si coniugano. Poi al 4 settembre arriveremo all'evento quello un pochino più divertente, qui si parte da, con lo spettacolo Meyer, si parte da un contenuto scientifico importante che è la storia del primo inventore del motore ad acqua, ma attorno a questo autore, cioè una misteriosa scomparsa, e su questo noi abbiamo costruito uno spettacolo interattivo dove il pubblico partecipa allo spettacolo in qualche maniera. Ci si divertirà un po', ecco, volevamo dare anche un tocco di allegria alla manifestazione. Sabato 5 settembre, altro grandissimo omaggio a una donna straordinaria, Marie Curie, sempre a cura dei Teatri della Resistenza, con Laura Nardi, e qui insomma non c'è bisogno di presentazione perché insomma è un personaggio femminile che merita grandissima attenzione e rispetto, e quindi noi abbiamo voluto che assolutamente fosse presente nella nostra manifestazione. Chiuderemo in bellezza con sabato 19 con lo spettacolo Mileva, che è uno spettacolo prodotto da CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, e anche qui è un omaggio a una grandissima donna, quindi il tema femminile è comunque importante all'interno della nostra manifestazione. Mileva insomma è una grandissima scienziata, oltre insomma a essere sposata con uno dei più grandi scienziati della storia, ma è soprattutto, vogliamo dare dignità e sottolineare la figura della scienziata donna. La manifestazione è totalmente gratuita e ci teniamo che ci sia, nonostante le restrizioni causa Covid del pubblico, ci sia una grandissima partecipazione, quindi l'abbiamo pensata accessibile per tutti, più popolare possibile, e tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Ecco, adesso ti ho fatto un po' una panoramica generale su tutta la manifestazione. Ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Per la prenotazione è obbligatorio prenotarsi online, come la legge impone. È possibile prenotarsi o andando sul Facebook di Quintescenza o sul Facebook del Teatro del Lido, oppure troviamo dei link anche su affabulazione.net o anche sul sito internet del Teatro del Lido, perché questa è una manifestazione organizzata in collaborazione anche con il Teatro del Lido, che ha gentilmente messo a disposizione i propri spazi e insomma le proprie competenze. Prima edizione della rassegna Quintescenza al Teatro del Lido di Ostia dal 7 agosto al 19 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al curatore Cristiano Petretto. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Con Federica Mancini, direttrice artistica di Contattitere, Festival Latino di Teatro di Figura, a Roma, al Parco del Pineto e alla Biblioteca Casa del Parco, dal 29 agosto al 3 settembre 2020. Federica, ben trovata. Ben trovata, ben trovati a voi. Ci racconti di questo progetto? Contattitere nasce con l'esigenza di ristabilire un contatto in questa fase della pandemia e in particolare ritrovarlo attraverso un'alternativa culturale e soprattutto di condivisione, perché vuole essere un festival partecipato dove sono realmente i cittadini a costruirlo con noi, dall'ospitalità degli artisti presso le proprie case, non si potrà fare in questa edizione ma nelle altre sì, alla realizzazione degli arredi del parco e a tantissime altre attività per tutte le età. Quanti saranno gli eventi presentati in questa edizione? L'edizione è composta, diciamo, da varie sezioni. La prima è quasi in conclusione, tra l'altro, con il workshop di costruzione di marionette in termoplastico che stiamo proprio completando, che praticamente grazie a questi lavori e alle marionette realizzate realizzeranno la parata di apertura del festival, che partirà appunto da sabato 29 con 6 spettacoli. Gli spettacoli la sera, durante il pomeriggio ci sono tante altre attività che appunto vanno dai laboratori alle letture tattili, agli incontri con gli artisti e momenti di gioco attraverso ovviamente il teatro di figura sempre. Per quanto riguarda la scelta dei lavori, come ti sei mossa? Gli spettacoli spettacoli, essendo un festival di teatro di figura latino, quest'anno ovviamente vede in forma ridotta, no? Le compagnie provenienti dall'estero sono state sostituite a causa Covid. La scelta è stata un po' quella di voler offrire un ventaglio di tecniche il più diversificate possibile all'interno di questa antichissima arte del teatro di figura. Quindi partiamo da cose enormi, pupazzi a dimensione umana, alle ombre, alle opere appunto di Girovago e Rondella, dove i personaggi sono piccoli quanto una mano, a burattini, mappet, insomma. L'altro criterio è ovviamente quello di selezionare dei titoli che avessero all'interno un messaggio comunque legato alla speranza, alla possibilità, al sogno, perché questa ci sembra in questo momento una cosa importante, e alla bellezza come elemento, insomma, imprescindibile. Come saranno strutturate le giornate? Le giornate partono dal pomeriggio, dalle 17, sono tutte attività gratuite ovviamente, con i laboratori. Per i laboratori è preferibile la prenotazione, quindi ci saranno attività nel pomeriggio che partono veramente dai 12 mesi d'età, dedicate ai 12 mesi d'età, fino agli adulti. Tra le 17 e le 19 ci sono laboratori, letture, tattili, letture, narrazioni e tutti i laboratori. Alle 21 lo spettacolo, ovviamente. Inizieremo già alle 20:30, insomma, no? Per l'entrata in sicurezza, l'ingresso degli ospiti. Ci dai dei riferimenti internet per seguire tutta la programmazione? Abbiamo creato una pagina Facebook Contattitere, appunto, contatto più titere. Poi comunque tutta la programmazione ovviamente è su Romarama, sul sito del Comune di Roma. Contattitere, il Festival Latino di Teatro di Figura al Parco del Pineto e alla Biblioteca Casa del Parco a Roma dal 29 agosto al 3 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Federica Mancini. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio grande a voi, grazie tante, grazie, buona giornata. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.